24. La storia. L'ordine diceva: devono essere fucilati. E io avevo il dovere di eseguirlo. Quelle atrocità sono successe, io c'ero. Bentornati a Mix 24. Oggi riprendiamo il racconto della vita nel campo di Auschwitz, dove l'abbiamo lasciato ieri. Un racconto basato su documenti venuti alla luce dopo l'apertura degli archivi nell'Europa dell'Est e grazie a interviste e testimoni che hanno vissuto quell'orrore. Per rendere Auschwitz una fabbrica di morte ancora più efficiente, Höss interpella l'esperto delle SS in smaltimento di cadaveri. Nel settembre 1942 Höss si reca in una località sperduta della Polonia, nei pressi del villaggio di Chełmno. Il motivo del viaggio e il contenuto dei colloqui sono noti attraverso le memorie dello stesso Höss e il racconto di altri testimoni. Höss vuole incontrare il colonnello delle SS Paul Blobel e vedere all'opera le nuove unità per la cremazione installate nel campo. Ascoltiamo la ricostruzione basata su documenti originali. Untersturmführer, faccia un disegno, come stabilito. All'inizio abbiamo provato a smaltire i cadaveri con bombe incendiarie, ma non abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti. E abbiamo anche provocato un incendio nel bosco. Un incendio nel bosco? Già. Questo impianto invece funziona molto bene, se sulla griglia si alternano uno strato di corpi e uno di legna. Interessante. Sì. Per il fuoco usiamo residui di benzina. Alla fine i tedeschi sembrano aver trovato il modo più efficace per risolvere l'ultimo dei loro problemi, cioè che cosa fare di decine di migliaia di cadaveri. A partire dall'inizio del 43, le nuove camere a gas e i forni crematori aperti aumentano esponenzialmente il potenziale omicida del campo. Ma in un'atmosfera di orrore e di morte c'è anche incredibilmente lo spazio per l'amore. È il risvolto segreto di Auschwitz, quasi un tabù, che per pudore e rispetto dei milioni di vittime è stato spesso taciuto dalla storia. Tutto si svolgeva nella zona del campo soprannominata Canada, dove i nuovi prigionieri appena arrivati vengono immediatamente spogliati di tutti i loro beni. È qui che le SS ne approfittano per arricchirsi personalmente ed è qui che, a sorpresa, possono perfino nascere dei rapporti sentimentali tra soldati tedeschi e le deportate. Improvvisamente entrò nella baracca dove lavoravo. Nel momento in cui mi passava accanto, mi fece scivolare in mano un biglietto. Quel biglietto io lo distrussi immediatamente. Tuttavia, riuscii ugualmente a leggere la frase: «Amore, mi sono innamorato di te». E a quel punto pensai: «Preferisco morire piuttosto che avere una storia con uno delle SS». Quell'episodio scatenò dentro di me un odio enorme. E quella sensazione durò per molto, molto tempo. Io non riuscivo nemmeno a guardarlo. Con il tempo, però, i sentimenti di Elena Zitronova cambiano. Soprattutto dopo l'arrivo di un treno ad Auschwitz-Birkenau. Su quel convoglio, infatti, c'è la sorella di Elena, con la figlia e il figlio appena nato. Dopo il loro arrivo a Birkenau, Elena Zitronova viene a sapere che stanno per essere mandati tutti nella camera a gas. Il suo spasimante delle SS, Franz Wunsch, corre a vedere se può fare qualcosa. Franz mi disse: «In fretta, dimmi come si chiama tua sorella, prima che sia troppo tardi». Io gli risposi subito: «Non puoi fare niente. È arrivata con due bambini piccoli». E lui mi disse: «Per i bambini è diverso. Qui i bambini non possono viverci». Franz corse immediatamente al crematorio e riuscì a trovare mia sorella. Wunsch non ce la fa a salvare i bambini, ma riesce a portare via la sorella di Elena Zitronova, dicendo che fa parte della squadra che lavora al Canada. Quella volta Franz fece qualcosa di veramente grande. Ci sono stati momenti in cui dimenticavo che io ero un'ebrea, che lui non era un ebreo. Se devo essere sincera, finii per amarlo. Ma sapevo che era una storia senza futuro. Elena Zitronova e sua sorella sopravviveranno ad Auschwitz. Anche se il rapporto sentimentale con Wunsch non avrà un seguito, molti anni dopo la donna testimonierà in suo favore quando il soldato sarà processato per crimini di guerra. Ma il Canada è anche luogo di altre tentazioni per le SS. A ricordarlo, Libusa Breder, deportata ad Auschwitz. Dovevamo controllare ogni singolo oggetto, indumenti, biancheria, tutto. E trovavamo diamanti, oro, monete, soldi, dollari, valuta estera proveniente da ogni parte d'Europa. Le lavoratrici del Canada devono mettere gli oggetti di valore trovati in una cassa chiusa a chiave che si trova al centro della baracca. Ma le guardie delle SS spesso riescono a intervenire in questa procedura. Si portavano a casa oro e altri oggetti preziosi. Li rubavano. Nessuno stava lì a contare. Il campo principale di Auschwitz era come una cittadina di provincia, un paesino con le sue chiacchiere e i pettegolezzi. C'era una drogheria dove potevi comprare delle ossa per fare il brodo. C'era la mensa, il cinema, un teatro dove davano spettacoli regolari. C'era anche un circolo sportivo a cui mi ero iscritto. C'erano svaghi e divertimenti, come in una qualsiasi cittadina. L'alcol aveva un ruolo importante al campo. Ogni giorno ci spettava una razione che non ritiravamo nemmeno. Ogni tanto lo prendevamo tutto insieme e ci facevamo delle bevute memorabili. Era il racconto di Oscar Gröning, della guarnigione SS ad Auschwitz. Tutt'altro che tormentati dal pensiero di partecipare allo sterminio di massa di uomini, donne e bambini, i soldati delle SS che lavorano ad Auschwitz sembrano svolgere il proprio lavoro senza grossi scrupoli morali. Circondati da gente che muore di fame, si abbandonano a stravizi, spesso con cibi e bevande che hanno sottratto agli ebrei appena arrivati. Il ricordo di Tadeusz Rybacki, deportato ad Auschwitz. Bevevano di tutto là dentro. Sembrava una specie di orgia di gangster. Bevevano, cantavano, si davano grosse pacche sulle spalle. Sui tavoli c'erano alcolici di tutti i tipi, compresi diversi cognac francesi. Noi servivamo da mangiare. Quei banchetti erano una cosa semplicemente rivoltante. Tanto che Paschke, che era un detenuto sorvegliante, una volta ne vide uno che vomitava e disse disgustato: «Solo i porci sanno vomitare così bene». Continuiamo il racconto della vita nel campo di sterminio di Auschwitz dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. In un lager come Auschwitz, affidato al comandante Rudolf Hess, la corruzione è un fenomeno dilagante. Lo è a tal punto che nell'autunno del 43 un altro ufficiale dell'SS, il tenente Konrad Morgan, giunge al campo per un'ispezione a sorpresa. L'indagine non riguarda il fatto che ogni settimana migliaia di innocenti vengono uccisi nelle camere a gas. Questo per Himmler è solo un sacro dovere. Morgan deve verificare che non vi siano casi di appropriazione indebita e che tutto il denaro e gli averi rubati agli ebrei al loro arrivo finiscano effettivamente nelle casse del Terzo Reich e non negli armadietti personali degli uomini dell'SS. Morgan è allibito da quello che trova. La perquisizione degli armadietti fece rinvenire una vera fortuna in oro, anelli, collane di perle e somme di denaro nelle valute più disparate. La condotta del personale delle SS era molto al di sotto degli standard minimi che si richiedono a dei militari. Ebbi l'impressione di avere a che fare con parassiti degenerati e brutali. Quando fecero quella perquisizione negli alloggi della truppa e dei sottufficiali, io non mi trovavo al campo. Ero andato in missione a Berlino per consegnare sterline inglesi e dollari americani. Al mio ritorno trovai il mio armadietto chiuso con i sigilli. Gröning viene a sapere che due dei suoi camerati sono già stati arrestati perché trovati in possesso di merce di contrabbando. Uno di loro si toglierà la vita in cella. Sapendo benissimo che anche nel suo armadietto c'è merce rubata, Gröning escogita un ingegnoso stratagemma per uscire da una situazione critica. Visto che la Gestapo ha sigillato la parte anteriore dell'armadietto, Gröning decide di smontare il pannello posteriore. Poi andai alla Gestapo e protestai: «Scusate, ma perché avete sigillato il mio armadietto? Sono appena tornato da una missione, ne ho bisogno. Prima dobbiamo controllarlo». Allora sono venuti, hanno tolto i tre sigilli e hanno aperto lo sportello. Ovviamente non hanno trovato niente. Mi hanno dato una pacca sulla spalla e mi hanno detto, a posto, fai pure. Ma ripensando a quegli anni, non le dispiace neanche un po' di avere cercato una vita più comoda mentre lì vicino venivano uccise delle persone? Milioni di persone? Nemmeno per sogno. Ognuno badava a se stesso e poi a morire erano in tanti, non solo gli ebrei. In quella guerra sono successe tante cose terribili, tante persone morte in combattimento, tante travolte dai carri armati, gente arsa viva. Se avessi dovuto pensare a tutte loro, non avrei voluto vivere un minuto di più. Era la voce di Oskar Gröning, soldato delle SS ad Auschwitz. Il pensiero che non sia poi così grave cercare di trarre profitto personale dalle disgrazie degli ebrei è solo uno dei sintomi di un atteggiamento diffuso tra le SS, favorito dal particolare contesto di Auschwitz, dove viene tollerata qualunque cosa, se capita, anche la violenza sessuale. Le donne più a rischio sono quelle che lavorano nel centro di Cernita del Canada, il ricordo dei deportati Libusa Breder e Josef Paczynski. Grasse scrofe. Così ci chiamavano gli ufficiali delle SS. Eravamo presentabili, sembravamo ancora delle persone normali, non come le altre. Una volta c'era una ragazza molto carina, non era deperita, aveva un bel corpo formoso. Venne un soldato delle SS e la violentò. Dio non c'era ad Auschwitz, era così orribile che nemmeno Dio ci veniva. Nel 1943, io e molti altri ci trovavamo nel blocco 24A. Un giorno l'anziano del blocco venne e disse: dobbiamo andarcene, perché qui devono farci un bordello. Cominciamo tutti a ridere come matti. Eh sì. Non è uno scherzo. Per quanto sembri strano, è vero. Il blocco 24, situato accanto al cancello principale di Auschwitz, deve diventare un bordello. E la decisione è stata presa dai massimi vertici delle SS. È ormai da tempo che Himmler sta valutando l'idea di introdurre degli incentivi per i prigionieri del sistema concentrazionario nazista. A Otto Pohl, responsabile dell'ufficio economico delle SS, Himmler scrive: reputo necessario che i prigionieri più diligenti nel lavoro vengano forniti con la massima liberalità di donne in appositi bordelli. I prigionieri con queste istruzioni vengono impartite ai comandanti dei campi, come Rudolf Höss, attraverso una direttiva del generale Pohl del 1943. Uno, allentamento delle misure restrittive, due, indennità di vitto. L'idea non è di consentire l'uso dei bordelli a tutti i detenuti, gli ebrei sono ovviamente esclusi a priori, accesso ai bordelli, bensì di rilanciare degli speciali coupon solo a quei prigionieri che i nazisti considerino particolarmente preziosi. Ad esempio prigionieri come Richard Datzko, che lavora nella squadra antincendio di Auschwitz. Se volevi un coupon, dovevi metterti d'accordo con quelli delle SS. E loro davano i coupon soltanto ai prigionieri in buona salute. Non li davano a chi non si reggeva in piedi. Li davano a quelli che facevano i cuochi per le SS, ai barbieri delle SS. Tutti questi prigionieri speciali ricevevano i coupon. Io riuscii ad averne due. Si sa poco delle donne che sono costrette a lavorare nel bordello. Molti preferiscono non parlare troppo di questo argomento, ma si pensa che siano state selezionate direttamente nel campo tra le prigioniere non ebree. A ognuna viene assegnata una delle camere al primo piano del blocco 24, dove ricevono le visite dei prigionieri muniti del necessario coupon. Il racconto di Richard Datzko, deportato ad Auschwitz. Volevo stringermi a lei, abbracciarla più che potevo, perché era da quando ero stato arrestato, da 3 anni e mezzo, che non andavo con una donna. Nel clima abbrutito di Auschwitz, i prigionieri come Richard Datzko hanno difficoltà a provare simpatia per le donne che lavorano nel bordello. Le ragazze venivano trattate molto bene, mangiavano bene, facevano delle passeggiate, dovevano fare soltanto quello che veniva chiesto loro. Ecco. Nel campo principale di Auschwitz, il bordello rimarrà in funzione fino al gennaio del 45. Le sofferenze subite dalle donne che lavoravano in queste stanze sono uno dei capitoli più sconosciuti della storia di Auschwitz. Intanto, per il campo il 1943 è un anno di transizione. E l'inizio simbolico di questa fase è segnato dall'arrivo di un nuovo membro dello staff medico del campo. Tutti lo conosceranno come l'angelo della morte, il suo nome è Joseph Mengele, un nome che la storia ricorderà con orrore. Il medico della morte arriva ad Auschwitz nel maggio del 43 e il campo di concentramento sarà per lui un enorme laboratorio con cavi umane a sua totale disposizione. Prima del suo arrivo nel campo già si conducono esperimenti medici, ma Mengele avvia un gran numero di nuove sperimentazioni legate alle sue ossessioni personali. Esperimenti sui bambini, in particolare sui gemelli, sottoposti a inimmaginabili torture, tutte volte alla ricerca della razza pura. Intanto, tra la primavera e l'estate del 44, le camere a gas e i quattro crematori di Auschwitz faticano a stare al passo con la tabella di marcia dello sterminio. Ma questo pone di nuovo ai tedeschi il problema dello smaltimento dei cadaveri. La soluzione allora è aumentare drasticamente il numero degli effettivi del Sonderkommando, il reparto speciale dei prigionieri ebrei impiegati per occuparsi dei cadaveri delle vittime del gas. Morris Venezia, deportata da Auschwitz, è uno di loro. Quando la gente era chiusa in quella camera a gas, sentivi le voci che invocavano Dio. Sembravano voci che provenivano da una catacomba. Ce l'ho ancora impresse nella mente, quelle voci mi risuonano ancora nelle orecchie. Se a uccidere materialmente sono sempre soltanto soldati tedeschi, tocca ai prigionieri del Sonderkommando il compito terribile di raccogliere i cadaveri, metterli su un piccolo montacarichi e bruciarli nei forni del crematorio o, come accadrà sempre più di frequente, in fosse comuni a cielo aperto. Bruciavano cadaveri. Tutti i giorni. Alla fine ti ci abituavi. Sapevamo bene che alla minima obiezione saremmo finiti con un proiettile in testa. Eravamo come dei robot. Le volte in cui il numero di prigionieri da eliminare è esiguo, non vengono usate le camere a gas. In quel caso, gli uomini del Sonderkommando sono costretti a restare a pochi centimetri dalle vittime durante l'esecuzione. Li portavano uno alla volta e noi dovevamo tenerli per le orecchie. Alle loro spalle c'era il soldato delle SS che gli sparava alla schiena. Quei poveracci crollavano pieni di sangue. Lì vicino c'era uno di noi con un secchio d'acqua che puliva tutto. Dopo un po' non capisci più niente. Non ti frega più niente di niente. La coscienza sparisce dentro di te e resta nascosta. Ancora oggi è come se dentro di me ci fosse qualcun altro che mi sveglia e mi dice: ma come è potuto succedere? Perché hai fatto una cosa del genere? Era il racconto del sopravvissuto Dario Gabbai. La furia omicida e la determinazione dei tedeschi allo sterminio non danno tregua. Il 2 agosto del 44 a sera i tedeschi procedono alla liquidazione del campo degli zingari. A ricordarlo, Alice Locke-Canan. Il campo degli zingari era molto vicino alla nostra baracca. Quella notte sentimmo tutto, fu una cosa da non credere. Tutte quelle urla, i lamenti, il fumo e rumori spaventosi. Stavano prendendo gli zingari, e gli zingari sapevano dove li stavano portando. Nell'autunno del 44 tutti i ghetti dell'Europa dell'Est sono stati ormai liquidati. L'ultimo è stato quello di Lodz. Ma per la Germania le sorti della guerra appaiono ormai compromesse. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Alla fine del 44 l'impero del Reich è compromesso e la macchina dello sterminio rallenta. Nel campo di concentramento di Auschwitz, dopo il picco della primavera con 10.000 deportati uccisi ogni 24 ore, il ritmo dello sterminio scende bruscamente, meno di 1.000 vittime al giorno. Un numero comunque enorme, ma adesso i prigionieri del Sonderkommando, i reparti speciali di ebrei che lavorano nel campo, temono per la propria sorte. Dario Gabbai, deportato ad Auschwitz, racconta le loro perplessità. Ci stavano cambiando incarico. Sapevamo perfettamente di avere i giorni contati, ma non sapevamo quando sarebbe toccato a noi. Sabato 7 ottobre 1944, intorno alle 13:30, gli ebrei del Sonderkommando del crematorio 4 si ribellano. Appiccano il fuoco al crematorio e, armati di picconi e pietre, attaccano le guardie delle SS. La rivolta si allarga anche al Sonderkommando del crematorio 2. Dopo alcuni minuti di combattimento corpo a corpo con le SS, alcuni ebrei riescono a fuggire nel bosco vicino. Verranno tutti ripresi e fucilati. La rappresaglia delle SS colpisce anche gli ebrei del Sonderkommando che non hanno partecipato alla rivolta. Il tragico ricordo del deportato Henrik Mandelbaum. Non sapevano che cosa dovessero fare con noi. Stettero un po' a discutere tra loro e alla fine ci dissero di sdraiarci faccia a terra, con le mani dietro la schiena. Cominciarono a uccidere una persona su tre. Uno, due, e alla terza persona gli sparavano. Alcuni miei amici del Sonderkommando vennero uccisi così. Noi altri fummo rimandati al lavoro, ma non avevamo grosse speranze di cavarcela. È così che sono andate le cose. Non ci ammazzarono solo perché c'erano 4.000 cadaveri da portare nei forni e noi eravamo gli unici capaci di farlo. È per questo che ci risparmiarono la vita. Ma dopo quel giorno eliminarono la maggior parte di noi. Rimanemmo appena i 92. Tutti gli altri furono presi e uccisi. Nel gennaio del 1945 anche le SS di Auschwitz sono consapevoli che la fine è imminente. Ogni riferimento al campo come centro per lo sterminio di massa deve essere eliminato. Fummo svegliate nel cuore della notte dal rumore di un'esplosione. Stavano facendo saltare le camere a gas, i crematori. Fuori trovammo le SS che ci aspettavano. Ci ordinarono di metterci in marcia e chi non camminava abbastanza in fretta veniva ammazzato sul posto. Arrivammo ad Auschwitz Heinz, che si trovava a circa un'ora di cammino, verso l'una di notte. E i nazisti sparirono come se fossero stati inghiottiti dalla terra. Eva Moses-Kor e altri 1200 altri prigionieri, ritenuti troppo deboli per essere evacuati, vengono abbandonati a se stessi nel campo principale di Auschwitz. Le guardie sono quasi tutte scappate. Al loro posto arriva un'altra unità delle SS che ha l'ordine di eliminare tutti i prigionieri. Di quanto si è verificato ad Auschwitz non deve restare nessun testimone. Nel frattempo, più di 50.000 internati, considerati idonei al lavoro, devono raggiungere a piedi, con temperature sotto lo zero, gli scali ferroviari dove li attendono i treni diretti a ovest. Quel vagone era pieno come un uovo. C'era uno che stava in piedi e era un tedesco. Ci disse che era tedesco. Forse era un detenuto, chissà. Comunque voleva mettersi a sedere, non ce la faceva più a stare in piedi. Alla fine mi disse: senti, posso darti delle sigarette se mi fai mettere a sedere. Quando sentii sigarette, quello aveva le sigarette. D'accordo, mi dette due o tre sigarette e io lo feci sedere. Dopo un po' le sigarette non c'erano più e gli dissi: su, alzati, alzati. Ma non voleva alzarsi. Allora io e un paio di miei amici ci siamo seduti sopra di lui. Dopo mezz'ora, un'ora, il tizio era morto soffocato e lo abbiamo buttato giù dal vagone. Ero contento. Come dovevo sentirmi? Loro mi avevano ucciso tutta la famiglia, 30-40 persone. Io avevo ammazzato un tedesco. Pff, niente a confronto. Ma è stato un omicidio. Lei ha ucciso un prigioniero come lei. Ma gliel'ho detto, no? Ero contento perché avevo ammazzato un tedesco. Non l'avrei mai fatto, non l'avrei mai fatto a uno dei nostri. E comunque volevo sedermi anch'io perché anch'io ero stanco. Perché doveva vivere? Perché mi aveva dato due o tre sigarette? Non si era voluto alzare, ci siamo seduti sopra di lui ed è morto. Semplice. Era la testimonianza di Morris Venezia, deportato ad Auschwitz. Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche liberano Auschwitz. Ad attendere i soldati russi solo poche migliaia di prigionieri. Appena qualche giorno prima i nazisti hanno trasferito la maggioranza degli internati a ovest, verso la Germania. Quelli rimasti sono stati giudicati troppo deboli per affrontare la marcia. Avrebbero dovuto essere eliminati da apposite unità delle SS, ma nel caos della disfatta nessuno si è occupato di loro. A ricordarlo, Vasily Gromadsky, ufficiale della 60esima armata dell'Unione Sovietica. Quando mi resi conto che erano prigionieri e non membri del personale del campo, gridai loro: «Venite fuori, siete liberi!» Cominciarono a correre verso di noi, erano tantissimi. Piangevano, ci abbracciavano, ci baciavano. Tra i prigionieri del campo principale di Auschwitz ci sono alcune centinaia di bambini. Ci sono anche molti gemelli che i medici tedeschi hanno usato come cavie per i loro esperimenti. Tra loro Eva Moses-Kor, che nel 1945 ha 10 anni. Corremmo verso di loro e loro ci abbracciarono. Ci dettero dei biscotti e del cioccolato. Quando sei così sola, un abbraccio significa molto più di quanto si immagini. Perché era quel calore umano di cui avevamo un bisogno disperato. Non avevamo solo fame di cibo, ma anche di gentilezza, di affetto. E l'esercito sovietico riuscì a darcene un po'. Neanche 3 mesi dopo la liberazione di Auschwitz, l'Armata Rossa è a Berlino. Il 30 aprile del 45 Hitler si toglie la vita nel bunker sotto la cancelleria. Il 5 maggio il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, si incontra con Himmler e altri ufficiali dell'SS nell'ultima zona della Germania che non è ancora stata liberata. È lo stesso Höss a ricostruire quell'incontro drammatico con Himmler nel suo libro di memorie Comandante ad Auschwitz. Non mi resta che impartirvi il mio ultimo ordine. Nascondetevi nella Wehrmacht. Così si congedò da noi l'uomo al quale avevo tributato tanto rispetto, nel quale avevo avuto completa fiducia, i cui ordini, le cui parole erano state per me Vangelo. Reichsführer. Standartenführer. Reichsführer. Per Höss è una delusione cocente. L'ufficiale si aspettava di essere chiamato ad un ultimo disperato atto di resistenza. Gli ordini invece sono diversi. Höss indossa un uniforme da sottufficiale della Marina Militare Tedesca e si reca sull'isola di Sylt, nota meta turistica, per nascondersi tra i marinai. I servizi segreti inglesi rintracciano la famiglia di Höss che si è stabilita a nord di Belsen. La moglie Hedwig viene arrestata e interrogata. Per 5 giorni gli inglesi le chiedono di suo marito, ma la donna continua a rispondere che è morto. Poi, la mattina del 6° giorno, gli ufficiali dell'intelligence militare provano a indurla a parlare con uno stratagemma. Il capitano William Cross, ufficiale in comando della 92esima sezione per la sicurezza del campo, rivelerà in seguito i dettagli di quell'interrogatorio. Signora Höss, glielo chiediamo per l'ultima volta. Dov'è suo marito? Dov'è? Lui è morto. Lo sente il treno che è là fuori? Quel treno è diretto in Russia, in Siberia. E ci salirà anche suo figlio che si trova nella cella qui accanto. Ha solo 2 minuti di tempo per salutarlo. Oppure, se ci scrive l'indirizzo dove si trova suo marito e il nome che usa come copertura, potrà tornare a casa insieme a suo figlio. 10 minuti. Convinta di salvare suo figlio, la signora Höss decide di dire la verità. Alle 11 di quella stessa sera, soldati inglesi della 92esima sezione per la sicurezza sul campo raggiungono la fattoria indicata da Hedwig Höss. Non muoverti! Fermo dove sei! Lasciatemi! Aiuto! Che volete? Che volete? Fermo! Fatelo alzare! In piedi! In piedi! Hai luce! Come ti chiami? Franz Lang. Il tuo vero nome. Il tuo vero nome! Gli inglesi, che sanno perfettamente di quali crimini è responsabile Höss, sfogano su di lui tutta la loro rabbia. Nome! Il tuo nome? Un soldato che ha assistito alla cattura di Huss riferisce. Botte, urla. Non la finivano più. Il tuo vero nome? L'ufficiale medico che li accompagna grida al capitano Cross di richiamare i suoi uomini. Altrimenti, spiega, si ritroverà tra le mani un cadavere. Rudolf Hess. Avete sentito una ricostruzione basata su documenti originali. Il comandante del campo di concentramento è stato catturato. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Dopo l'arresto, Rudolf Hess viene interrogato prima al comando inglese locale, poi a Norimberga, nel processo per i crimini di guerra che vedrà sfilare i gerarchi nazisti. Hess è un uomo senza alcuno scrupolo, non mostra alcun segno di pentimento. In attesa del processo, Rudolf Hess trascorre le giornate scrivendo le sue memorie di comandante ad Auschwitz e di ufficiale delle SS. È un documento di grande importanza storica che getta molta luce sulla mentalità del suo autore. Hess rievoca la prima volta in cui ha visto donne e bambini diretti nelle camere a gas improvvisate nelle baracche di Birkenau. Una volta una donna passando mi è venuta vicino e, indicandomi i suoi quattro figli che aiutavano fraternamente i più piccoli a superare gli ostacoli del terreno, mi ha sussurrato: «Con che coraggio mandate a morte questi bambini? Ma non ce l'avete un cuore?» Hess confessa che per scacciare dalla mente certe immagini particolarmente raccapriccianti spesso montava a cavallo e si lanciava in folli galoppate. Ma in Hess non c'è ombra di rimorsi. Le ragioni del programma di sterminio mi erano sembrate giuste. Dopo un processo durato 3 settimane, Hess viene condannato a morte per impiccagione. Il patibolo appositamente costruito viene allestito sul luogo dei suoi crimini, ad Auschwitz. Mentre veniva condotto al patibolo per l'esecuzione, Hess sembrava calmo. Normalmente, quando stai andando a morire, non sei affatto calmo. Io so di che cosa parlo. Noi stessi ci eravamo già passati e più di una volta. Avevamo visto la morte da vicino. Era uno abituato a decidere la vita e la morte degli altri. Mentre veniva condotto al patibolo, pensavo che lui, da convinto nazionalsocialista quale era, magari avrebbe detto qualcosa. Non so, che avrebbe esaltato l'ideologia nazista per la quale stava morendo. E invece non disse niente. Non disse una parola. Niente. L'esecuzione, pensai, la vita di un solo uomo contro quella di milioni di persone non è troppo poco. Era quest'ultima la testimonianza del deportato Stanislaw Hans. Rudolf Hess viene giustiziato il 16 aprile del 47. La sua esecuzione, così come quella dei pochi gerarchi nazisti processati e giustiziati a Norimberga, non può naturalmente cancellare ed espiare i crimini commessi. La storia di Auschwitz e degli altri campi di sterminio diventerà nota in tutti i suoi particolari soltanto a poco negli anni. Poi nel 61 Gerusalemme ha portato alla sbarra Adolf Eichmann, il contabile dello sterminio, colui che ha organizzato e pianificato la cosiddetta soluzione finale. Le testimonianze dei reduci in aula rinnovano l'orrore e lo sgomento e la storiografia si pone nuovi interrogativi, a cominciare da quello più inquietante di tutti. Perché nelle centinaia di raid aerei sull'Europa occupata gli alleati non hanno mai bombardato Auschwitz? In realtà, nell'agosto del 1944 gli aerei anglo-americani arrivano vicinissimo al campo della morte. Libusa Breder deportata ad Auschwitz. Sentimmo gli aerei arrivare. Noi speravamo che bombardassero il campo. Almeno saremmo potuti scappare. Ogni giorno passavano sopra di noi centinaia e centinaia di aerei. Noi tutti lì a guardare, ma di bombe nemmeno una. Questa cosa proprio non la capivamo. Eravamo sempre più convinti di essere stati dimenticati, sia da Dio sia da chi faceva la guerra. A nessuno importava niente di noi. Umberto Gentiloni Silveri, professore all'Università La Sapienza di Roma, autore di Bombardare Auschwitz. Gli alleati potevano bombardare Auschwitz? Sì, gli alleati potevano bombardare. Diciamo, l'aviazione alleata, sia l'aviazione inglese che l'aviazione americana, sorvolano il perimetro di Auschwitz nel corso del 1944. Quindi dal 1944 in poi? Dal 1944 in poi, in particolare proprio nell'ultima estate di guerra, tra aprile del 1944 e l'ottobre dello stesso anno. Ecco, ma perché? Quali sono le prove che gli alleati sapevano effettivamente quello che stava avvenendo all'interno del campo di Auschwitz? Le prove sono di due generi, ci sono le prove di intelligence che già dal 1941 secondo alcuni storici e certamente dal 1942 circolavano, informazioni alcune più precise, altre meno, che le intelligence delle Nazioni Unite in guerra avevano ricevuto, decriptato e in un qualche modo diffuso. Poi ci sono le prove più schiaccianti, che sono quelle emerse soprattutto dai rapporti dei rifugiati, dei fuggitivi, mi riferisco in particolare al rapporto Verba, questi due giovani slovacchi che fuggono nel aprile del 1944 e che scrivono un rapporto dettagliato su quello che avevano visto. Quindi certamente si sapeva che cosa stava avvenendo all'interno di quel luogo. Alcuni, mi riferisco anche a un personaggio, Jankarski, sì, erano riusciti ad arrivare fino al presidente Roosevelt alla Casa Bianca. Sì, che poi racconteremo domani la storia di Karski. Professore Umberto Gentiloni, ma era chiara anche l'entità del massacro in atto? No, l'entità non era chiara, tant'è che anche questi rapporti sulle cifre, come poi la ricerca storica ha effettivamente dimostrato e verificato nel lungo dopoguerra, questi rapporti e queste informazioni sulle cifre erano molto oscillanti. Diciamo, alcuni sovrastimavano i numeri, altri provavano a ipotizzare delle cifre che poi effettivamente alla prova del tempo non hanno corrisposto al vero. Basti pensare che la stele nel monumento ad Auschwitz e a Birkenau, che viene posta a conclusione della guerra, riportando le cifre della commissione polacca e alleata che aveva lavorato proprio sulla ricostruzione dei numeri, sono state poi modificate nel corso del tempo fino a raccogliere i risultati della ricerca storica. Perché gli alleati non hanno bombardato Auschwitz alla fine? Non viene fatto perché in quello stesso anno la guerra è ancora in bilico. C'è stato lo sbarco in Normandia, si sta marciando verso Berlino non senza fatica, i tedeschi sono ancora in grado di difendersi in molti dei teatri di guerra su cui sono impegnati e le potenze alleate sono convinte, usano questo slogan, che solo la vittoria finale garantirà la liberazione per tutti. Quindi anche per gli ebrei la liberazione può avvenire soltanto attraverso la sconfitta definitiva di Hitler, e per ottenere questo risultato non si possono distogliere truppe, energie, intelligenze, risorse. Quindi realpolitik. Chiamiamola anche realpolitik, in realtà è, diciamo, più un discorso legato alle scelte di conduzione della guerra in quella fase, scelte che appunto privilegiano l'ottica di arrivare all'obiettivo finale anche a costo di non vedere che cosa si sarebbe potuto fare in situazioni così terribili che avvenivano a pochi chilometri di distanza. Professor Umberto Gentiloni, un bombardamento non sarebbe stato controproducente, ovvero non avrebbe ucciso ancora più persone? Allora, diciamo che si distingue nella discussione, anche nella trama di relazioni e di rapporti, il tema della fattibilità, per questo rispondevo all'inizio che si poteva fare, e dalla questione degli effetti. Certamente poteva esserlo nel senso di colpire, oltre alle strutture, i prigionieri, anche se tutti i testimoni si augurano che il bombardamento venga effettuato. Dicono, piuttosto che rimanere dentro in quella condizione, meglio che arrivi una bomba sulle nostre teste. Però sarebbe anche potuto essere controproducente nella misura in cui il risultato ottenuto non è commisurato allo sforzo. Mi spiego, dall'alto, dall'assù, come molti hanno poi raccontato, queste strutture gli impianti di messa a morte, le camere a gas, sono diciamo un piccolo spazio sulla Terra, no? Quindi colpire in modo, diremmo oggi, chirurgico, come si dice per le bombe impegnate in altri teatri di guerra, non era certamente scontato. Quindi questo è uno dei temi che ovviamente rallenta, complica, rende più difficile, diciamo così, l'avvio di una effettiva procedura con un ordine che poi effettivamente in via definitiva non è stato mai dato. C'è una responsabilità maggiore su chi effettivamente sapeva e quindi avrebbe potuto dare l'ordine di bombardare e poi non l'ha fatto? Diciamo che chi potenzialmente poteva dare questo ordine sapeva, perché appunto la ricerca, diciamo anche l'incrocio delle fonti conferma che tra sicuramente tra il 43 e l'inizio del 44 e chi era? Politici, diplomatici, mi riferisco al Foreign Office inglese, al Dipartimento di Stato, quindi il ministro della guerra, ma lo stesso primo ministro Churchill arriva tra le sue mani la richiesta di intervenire con un bombardamento e lui passa, diciamo, il dossier al proprio ministro dicendo anche di utilizzare il suo nome, se questo nome utilizzato avrebbe accelerato le procedure. Però poi c'è una specie di rimpallo per alcune settimane tra Londra e Washington. Prima si chiude una strada, quella degli Stati Uniti che rimandano a Londra, Londra sembra prenderlo sulle proprie spalle come obiettivo e poi anche lì le cose non arrivano fino alla destinazione di una decisione chiara e condivisa. Grazie Umberto Gentiloni. Grazie a voi.